I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. È successo già prima che il coronavirus esplodesse come emergenza anche da noi e poi come pandemia. Quando quel 20 febbraio, che sembra ormai un'epoca così lontana, sono arrivata a Codogno, inviata nel centro del primo focolaio di contagio italiano, le farmacie avevano già la scritta fuori, mascherine esaurite. E così era anche in molte altre città e col tempo è andato sempre peggiorando. Le mascherine, come i guanti e i disinfettanti, e poi anche ventilatori polmonari sono diventati sempre più richiesti e sempre più introvabili. Condizioni perfette per speculatori che in ogni tempo, e quindi anche in questi, credono e sperano di fare affari con le crisi. Di quello che è successo all'atere dell'emergenza, nel sommerso dell'emergenza, e di quello che non è invece successo prima e durante questa emergenza, parleremo in più puntate di Storiacce. Tra speculazione e sottovalutazione. Ha sottoposto a sequestro su tutto il territorio nazionale presidi medico-sanitari e prodotti disinfettanti. Erano gli ultimi giorni di febbraio, quando la Guardia di Finanza di Milano cominciava già a sequestrare ciò che oggi il nostro paese più disperatamente continua a racimolare in ogni modo, ossia mascherine. Da allora in poi il bisogno di quei dispositivi sarebbe diventato sempre più urgente e i tentativi di speculazione sempre più insidiosi, proprio laddove l'emergenza morde di più. Mascherine vendute abusivamente o a prezzi stellari, guanti e detergenti immessi in una borsa nera dell'emergenza, dispositivi come i ventilatori di cui l'Italia ha disperato bisogno che stavano invece per essere venduti all'estero. Come in altre emergenze, anche in questa c'è chi prova a speculare sulle difficoltà. E anche in Lombardia, cuore della crisi da coronavirus, 21 persone denunciate per frode o manovre speculative sulle merci. 22.800 le mascherine sequestrate dalla Guardia di Finanza perché stavano per essere vendute al di fuori di ogni canale lecito, con prezzi aumentati fino al 2.000%. Così anche per gel e disinfettanti. 840.000 quelli recuperati in un mese, ad approfittare della crisi, a volte anche titolari di farmacie. 3 sono stati denunciati nel Mantovano e uno anche nella provincia di Monza per aver venduto mascherine con una percentuale di ricarico pari anche al 600%. Fin dall'inizio dell'emergenza, rincari stellari sono stati scoperti e bloccati anche su dispositivi medici in vendita su portali web. E il Lombardo è anche il titolare della società che ha provato a vendere alla Grecia 1840 circuiti respiratori bloccati nel porto di Ancona. Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Procura di Milano, referente per il dipartimento che si occupa del contrasto a truffe e quindi anche a speculazioni. Truffe e speculazioni sono cominciate da subito, anche qui, nel cuore dell'emergenza coronavirus? Prima di tutto vorrei dire che la Procura di Milano, anche in questa fase molto critica in cui opera da remoto, non si è mai fermata. Uno dei primissimi fenomeni che ci siamo trovati ad affrontare è stato quello, come al solito, delle truffe nei confronti dei soggetti vulnerabili. È capitato che alcune persone si sono recate presso appartamenti abitati da anziani fingendosi sanitari. Cioè bussavano alle case dicendo di essere operatori che andavano ad effettuare tamponi a domicilio, come effettivamente avveniva, in realtà avevano tutt'altre intenzioni, soprattutto quelle di furti in casa, immagino. Sì, classici reati di tipo truffaldino, ma anche predatorio, perché questi episodi, almeno noi non abbiamo oggi una statistica, ma per le informazioni che riceviamo sono molto più limitati da un punto di vista numerico, anche per l'azione che è stata fatta a livello mediatico di mettere subito in guardia i soggetti vulnerabili rispetto a questo genere di delitto. Invece, per quanto riguarda la caccia alle mascherine o ai detergenti, uno dei temi è stato quella della vendita a prezzi maggiorati. Che è avvenuta sia al dettaglio, ma queste merci sono rapidamente scomparse. I consumatori si sono sempre più rivolti ai mercati virtuali, dove però i prezzi sono immediatamente arrivati alle stelle, con rincari anche del 1000% in taluni casi. E proprio questo ha suggerito alla Procura di Milano di ipotizzare il reato che è previsto dall'articolo 501 bis del codice penale, manovre speculative su merci, grazie al quale sono stati anche effettuati dei sequestri, ma soprattutto, più che sequestri di mascherine, sono stati oscurati degli annunci su siti, annunci che si riferivano appunto a offerte in vendita a prezzi esorbitanti. Ecco, dottore, ci faccia capire una cosa, perché l'aumento dei prezzi in realtà di questi oggetti è un fenomeno che è successo forse in misura minore, ma anche al dettaglio, anche diciamo nei rivenditori tradizionali. Anche in questo caso avete trovato o è possibile muovere delle contestazioni se ad esempio le mascherine vengono vendute a prezzi fin troppo elevati rispetto al costo effettivo? Qui la contestazione del reato è più complessa, però abbiamo assistito ad un fenomeno del tutto nuovo. Attraverso i social venivano denunziate anche farmacie, oltre che negozi che proponevano la vendita di mascherine e disinfettanti a prezzi particolarmente elevati. È tutto da stabilire se le condotte configurino o meno fattispecie di reato. Certo è che tutto quello che si è mosso sui social ha poi indotto gli operatori, specialmente della Guardia di Finanza, a intervenire sul posto. Nel mese di marzo i dati del Viminale segnalano in realtà un drastico calo dei reati, ma come vedremo nella seconda parte era quasi scontato che avvenisse con l'Italia blindata in casa. In realtà ci sono comunque reati come l'usura che sono invece in aumento e, come abbiamo sentito, facendo leva sulle paure, sono comparsi anche nuove forme di truffe, quelle dei finti tamponi, ma pure quelle di chi diceva di vendere farmaci che dovrebbero curare proprio il Covid-19. Mentre sappiamo benissimo, purtroppo, che una terapia ancora non esiste. Anche questo hanno trovato i militari della Guardia di Finanza in questo mese di controlli, terminato col sequestro di 60.000 prodotti già. Numeri e vicende messi in fila dal colonnello Paolo Borrelli, capo ufficio tutela, uscite e mercati del Comando Generale della Guardia di Finanza. I reparti del corpo dall'inizio dell'emergenza hanno sottoposto a sequestro oltre 60.000 prodotti, tra medicinali, strumenti, apparecchi medicali, disinfettanti, prodotti per l'igiene. Alcuni di questi prodotti, alcune migliaia, sono stati sequestrati in dogana, ma la massima parte è stata individuata in fase di commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio. Mi faccia capire di che prodotti appunto stiamo parlando e quelli che sono stati sequestrati in dogana stavano per essere venduti a paesi stranieri? Si parla ad esempio di mascherine che erano accompagnate, sono risultate essere accompagnate da indicazioni mendaci, ad esempio, in quanto veniva assicurata proprio la piena e totale protezione dal contatto del virus. Ma in questo contesto, ecco, che riguarda naturalmente anche la commercializzazione sul web, ad esempio è interessante segnalare un'operazione che è stata condotta dal nostro nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze. Ecco, pensi che in questo caso, ad esempio, è stato sottoposto a sequestro e conseguentemente oscurato un sito web che commercializzava online, al prezzo addirittura di 640 euro per ogni confezione, un farmaco antiretrovirale. Veniva prodotto da un'azienda estera ed era da utilizzare per il contrasto al coronavirus. Un quadro nazionale, come spesso succede, nel bene e nel male anticipato da Milano, dove appunto da subito è iniziata la caccia a truffatori e speculatori, nascosti anche dietro fake news o dietro grossolani tentativi di imbrogliare sulla solidarietà. Tentativi però subito scoperti, rassicura il procuratore Fusco. Sono state oscurate quelle pagine nelle quali venivano proposti merci a prezzi che il rincaro minimo è superiore al 100%. Altri due aspetti. Lo sappiamo che purtroppo nei momenti di emergenza, di crisi, e questo lo è senza dubbio, ahimè, le truffe in vario modo subiscono degli incrementi anche eventualmente attraverso strumenti informatici, e ne stavamo parlando in questo momento, ma mai come in casi come questi, laddove si tratta anche proprio di emergenze nuove per la popolazione, hanno un valore importante anche tutte le informazioni, vere o false, che vengono fatte girare. Da questo punto di vista, che tipo, diciamo, di riscontri avete avuto anche nelle indagini fatte in questo mese o poco più? Spesso si cerca di dirottare su IBAN che sono in paradisi fiscali o che vengono investiti dietro la promessa di enormi plusvalenze. Ci siamo trovati invece in un periodo, quello attuale, in cui in tanti si sono organizzati per un crowdfunding finalizzato alla realizzazione di nuovi posti letto, di nuovi posti letto di rianimazione, implementazione di ospedali, eccetera. Sono Beh, in tanti. questo caso su Milano il caso il primo quantomeno è stato quello della raccolta di fondi per la creazione di una nuova terapia intensiva al San Raffaele promossa da Fedez e dalla Ferragni. Per esempio, su questo specifico caso, questi siti si indicava un IBAN che evidentemente non era l'IBAN corretto. Dove portava questo IBAN? In questa specifica situazione, gli investigatori hanno potuto verificare che portava ad una banca della Lituania. Fortunatamente è stato evitato che anche lo slancio per una solidarietà, appunto per la raccolta fondi per la costruzione di una nuova terapia intensiva, fosse vanificato in questo modo. Ma è Bisogna semplicemente fare attenzione, questi trucchetti sono in realtà riconoscibilissimi, bisogna solo leggere con attenzione. L'IBAN di qualsiasi conto in Italia inizia con una IT. Questo genere di truffe partivano da italiani o partivano da stranieri che cercavano di speculare sull'emergenza italiana anche in questo modo? Impossibile dare una risposta. Normalmente si tratta di organizzazioni non basate sul territorio nazionale, ma che si avvalgono anche di sodali che agiscono in Italia. Ma negli uffici giudiziari, anch'essi blindati e di fatto aperti solo per le urgenze, stanno già arrivando anche le prime denunce, innanzitutto per quanto sta avvenendo all'interno delle case di cura per anziani, di cui abbiamo parlato anche qui. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. I racconti di storiacce di Raffaella Calandra. Cortocircuito. Alcuni nel primo corridoio erano piuttosto pieni di fumo, però credo che ci vorrà un po' per rimettere a posto. L'ultimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano è quello dove si trova la cancelleria, l'archivio, quello dove vengono conservati anche gli atti come i più recenti rinvii a giudizio stabiliti dai GIP, i cui uffici sono proprio lì accanto e sono stati investiti dalle fiamme. Da un mese la folla che attraversa scaloni e androni del palazzo milanese del Piermarini è sparita, ma il meccanismo dell'amministrazione della giustizia, anche se quasi esclusivamente a distanza e soprattutto per le urgenze, non si è mai interrotto. E anzi, ora si prepara a far fronte anche all'onda lunga legata proprio all'emergenza coronavirus. Tutte le truffe, tutte le speculazioni, tutte le informazioni ingannevoli che in questi tempi di incertezza possono aver arrecato danni agli altri. Ma c'è un fronte che invece è già aperto anche nei fascicoli dei pubblici ministeri milanesi ed è quello che riguarda le case di cura per anziani, laddove si lotta e si muore, spesso in totale solitudine. Il primo caso positivo non sono stati avvertiti, ma soprattutto mi hanno fatto una rappresentazione di una realtà. Loro hanno denunciato e esposto nell'atto che non solo le mascherine mancavano, ma che le mascherine gli era stato vietato di indossarlo per non impressionare l'utenza. Romolo Reboa è l'avvocato della cooperativa AMPAST. Infermieri, operatori, sanitari dell'Istituto Palazzolo della Fondazione Dognocchi. E come ha spiegato ad Effetto Giorno, in 18 di questi operatori hanno firmato una denuncia perché ritengono di non essere stati avvisati del contagio. E ora dicono il virus ha raggiunto anche noi. Stiamo parlando di Milano, zona a rischio. La situazione sotto questo profilo che loro rappresentano sarebbe una situazione di completo spregio degli interessi degli operatori sanitari e dei malati per un volgare problema di cassetta, perché poi ogni persona che sta lì o a carico della regione, a carico proprio o a carico misto, è un portatore di soldi. E abbiamo esposto al procuratore della Repubblica di Milano una situazione che io ritengo veramente grave e discriminatoria, perché all'interno di quella struttura vi sono due tipi di operatori: gli operatori dipendenti della fondazione e gli operatori dipendenti della cooperativa esterna. Allora, i lavoratori, tra l'altro tutti contagiati, hanno dovuto prendersi i loro abiti di lavoro, uscire con i loro abiti di lavoro e andarsene a lavare a casa, portando in giro per il contagio. Altri lavoratori, quelli ufficiali, hanno avuto il lavaggio sterilizzato all'interno della struttura. Sono settimane che nei bollettini quotidiani ci sono anche cronache da istituti per anziani divenuti monadi chiusi all'esterno, col loro carico di malattia, di sofferenza, di solitudine, sia quella degli ospiti che non possono vedere i loro cari, che quella anche degli operatori che restano all'interno per non portare fuori il contagio. È successo a Messina per giorni, si è ripetuto a Milano, ma aumentano quanti ritengono che non tutto è avvenuto come doveva e sono già una decina, anticipa Storiace Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto di Milano, le denunce arrivate soprattutto da dipendenti di quegli istituti. E molte altre sono le previsioni, sono attese, considerando che già anche in altre città si preannunciano battaglie legali anche per gli indennizi per i tanti medici morti mentre curavano pazienti contagiati. Noi abbiamo già ricevuto, una decina di denunce in tal senso, che hanno come elemento comune la denuncia di omissioni di cautele a tutela dei lavoratori. Soprattutto buona parte di queste denunce sono state presentate da dipendenti, conseguentemente persone che lamentano sono state osservate le normative previste per la tutela dei lavori e dal rischio di infezioni sul posto di lavoro. Cioè, se ho capito bene, perché in questo momento era andata leggermente via la linea, cioè sono lavoratori dipendenti che in qualche modo denunciano il fatto che non erano state prese da parte dei titolari, quindi dei referenti, tutte le misure necessarie a tutela degli stessi lavoratori che casomai si trovavano ad avere a che fare con casi di contagio. Esattamente, la prima contestazione che viene fatta è quella di non tempestività nell'informazione, che avrebbe potuto in qualche modo limitare i rischi di contagio. In altri casi vengono denunciate omissioni proprio da un punto di vista di presidi sanitari messi a disposizione, ad esempio mezzi di protezione individuale. Che per il momento il quadro che ci si presenta, che se la mia esperienza non commette errori, ma credo purtroppo di non sbagliarmi, aumenterà, è destinato a aumentare nel tempo, si focalizzerà soprattutto su aspetti di questo tipo, soprattutto condotte omissive da parte dei soggetti che avevano una posizione di garanzia nei confronti o dei dipendenti o dei soggetti ricoverati. Certo, cioè, perché purtroppo è facile immaginarlo e la sua esperienza ce lo conferma, come adesso nel pieno dell'emergenza, considerate anche le difficoltà, anche se resta possibile, per presentare denunce, i casi, come ci diceva, sono una decina, però considerato tutto quello che sta succedendo, ecco, diciamo che vi aspettate, nel momento in cui si sarà usciti da questa primissima emergenza, un'onda lunga rispetto a tutto quello che è successo, soprattutto in luoghi di lavoro, ecco. Sì, questo è quello che ci aspettiamo, è quello che il mio dipartimento sta cominciando a valutare e si sta già attrezzando anche da questo punto di vista, nel senso che stiamo cercando di mettere già a punto dei modelli, dei protocolli di valutazione e di indagine che ci permetta di essere più efficienti e più celeri da questo punto di vista, anche dando per scontato che molte richieste è possibile che non abbiano particolare fondamento. È molto umano aver bisogno di un colpevole, di un responsabile a tutti i costi e cercarlo. come se questo insomma potesse attenuare il dolore, ma molto spesso non è così. Le responsabilità penali sono cose molto serie e vanno accertate con grande serietà. Cioè, quello che lei dice, considerando anche tutto quello che in tutti questi anni ha visto, occupandosi molto spesso appunto anche di salute e di ospedali, è che dopo la fase, diciamo, del lutto, del dolore, quella fase della rabbia che è umana porta anche ad una ricerca di responsabili che però non sempre effettivamente, almeno da un punto di vista penale, esistono. Ma sì, è così. D'altra parte, voglio dire, la morte di un congiunto è sempre percepita come un'ingiustizia. E quando tu subisci un'ingiustizia o ritieni che subisci un'ingiustizia, cerchi un responsabile. Questo è assolutamente umano. E quindi noi ci aspettiamo che, insieme a denunce che potrebbero avere un grandissimo fondamento, ci possa essere anche una percentuale di bisogno di trovare una spiegazione all'imponderabile. Se queste previsioni saranno confermate, significa che, considerando purtroppo i numeri così alti della Lombardia, anche se appunto la situazione è diversa da provincia a provincia, da città a città, si potrebbe innescare anche un effetto domino rispetto, non so, ai tanti che denunciano di non aver avuto adeguate cure. Diciamo che io non posso ovviamente prevedere il futuro, ma che ci stiamo preparando anche proprio come dipartimento a un fenomeno di questo tipo, sì. Il diritto alla salute e quello al lavoro. Ancora una volta l'Italia sembra doversi trovare davanti ad un bivio inaccettabile, davanti alla drammatica scelta tra due diritti fondamentali e primari, e ovviamente questo è un ricatto che non può avvenire e che per questo passa anche attraverso la fermezza delle norme che riconoscono ad ogni lavoratore il diritto di veder garantita la salute. Allora, un conto sono gli elementi di sicurezza sul lavoro. Su quello noi abbiamo la forse la miglior normativa del mondo, che si attaglia anche a situazioni come quella che stiamo vivendo, certamente imprevedibili, cioè che ha lasciato tutti quanti sorpresi, ma diciamo che è una normativa molto elastica, molto voglio dire, molto particolareggiata, conseguentemente applicabile anche a una situazione del tutto imprevedibile, con gli adeguati adattamenti. Dopodiché, che ci possano essere altri tipi di responsabilità e che questi possono confluire nel penale, ma questo è un discorso, come dire, completamente di differenza astratto, di certo. Certamente, questo è un elemento. Il lavoratore come tale nel suo lavoro deve essere tutelato con tutti i mezzi che la tecnica, che la scienza, che le possibilità concrete danno. Ovviamente questo è il fine principe della normativa a tutela dei lavoratori. La condizione che stiamo vivendo apre però anche interrogativi su altri fronti, dall'ordine pubblico messo a rischio, come è successo nell'assalto ad un supermercato di Palermo, alla condizione eccezionale di chiusura dell'intero paese che rende difficile anche denunciare alcuni reati come le violenze in famiglia. Così bisogna leggere in chiaroscuro i dati del Viminale col crollo dei reati in questo mese di lockdown. Con tutta l'Italia chiusa in casa, con l'impossibilità di spostarsi e con controlli serrati per strada, crollano nel loro insieme i reati. Meno 64% in questo marzo di pandemia, registra il Viminale. In giorni in cui le cifre il più delle volte trasmettono ansie, questo è invece senza dubbio un numero positivo. Anche se di sicuro temporaneo, è di sicuro legato anche alla difficoltà di denunciare reati, che anzi, secondo più osservatori, in alcuni casi resterebbero di più sommersi nel chiuso delle case, come le violenze sulle donne, o avverrebbero comunque davanti ai PC, come le truffe online. Non a caso, a diminuire di più sono lo sfruttamento della prostituzione, meno 77%, le violenze sessuali e i furti di vario genere. E non a caso, il calo è più significativo nelle regioni del nord, Lombardia e Veneto, chiuse da prima. Diminuiscono anche i reati legati agli stupefacenti, anche se le cronache, come nel napoletano, raccontano di pusher che effettuano anche consegna porta a porta. Trend opposto invece per i casi di usura, saliti del 22%, una stima che potrebbe aumentare ancora, è il timore degli investigatori in prospettiva anche della crisi economica. Insomma, tante cose cambieranno all'uscita dall'emergenza sanitaria e non in meglio purtroppo, mentre già nel frattempo a tutto quello che abbiamo fin qui detto si aggiungono anche le più recenti preoccupazioni per l'ordine pubblico, nel Mezzogiorno soprattutto, dove l'epidemia ha travolto per prima cosa quell'economia in nero che rappresentava un mezzo di sussistenza per parte della popolazione, lì dove ora aumentano scippi nelle strade di borse della spesa e già gli 007 mettono in guardia dal rischio rivolte e assalti nei supermercati più o meno pilotati. Anche di tutto questo si stanno già occupando le forze dell'ordine, oltre a tutto il resto. E proprio come non sono sparite purtroppo le malattie ordinarie, diciamo così, come ci ricordano i medici degli ospedali sovraffollati, così non sono spariti molti altri fronti per gli investigatori, conferma il colonnello Paolo Borrelli del Comando Generale della Guardia di Finanza. Un commerciante di ricambi per auto ha posto sulla sarcinesca del proprio esercizio commerciale un cartello in cui indicava che, ecco, testualmente sono arrivate le mascherine chiaramente proposte a prezzi molto elevati. Ma ancora, per darvi un'idea, un'attività di servizio del gruppo di Torino ha consentito di individuare un soggetto che si appropriava indebitamente di mascherine scadute dell'azienda presso la quale lavorava, per poi rivenderle autonomamente alterando l'etichetta e quindi modificando la data di scadenza. Speculatori, abbiamo intitolato questa puntata di Storiacce. Chi cioè punta ad un proprio interesse facendo leva sulla grande crisi del paese. Non sono pochi, purtroppo, anche in questa grave pandemia. Ma anche loro, anche chi ha provato ad arricchirsi con le mascherine che mancano ai medici, chi ha provato a truffare perfino sulle raccolte fondi per le terapie intensive, chi ha tentato di vendere all'estero ventilatori di cui l'Italia ha bisogno, anche loro potranno dover comprendere in prima persona il significato profondo delle parole di Papa Francesco, quando nel ricordare chi nell'ombra sta ora scrivendo la storia ha scandito al mondo che nessuno si salva da solo. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme podcast. Seguiteci e fateci avere commenti e segnalazioni sui social, su Twitter e Instagram. L'account è @RaffCalandra. Ma soprattutto, ricordate, restate davvero a casa.